Patterson alzò verso il cielo il figlio. Gli uomini tornarono e lui finì il ponte. Se volete vedere quei leoni oggi, dovete andare in America. Sono nel Museo Field a Chicago. Perfino adesso, se li fisserete dritti negli occhi, avrete paura. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Gli spaghetti alle vongole erano una cosa eccezionale che si mangiava solo alla vigilia di Natale. Li ho mangiati, divorati, con la testa poggiata sul tavolo, gli occhi chiusi perché ero stanchissimo e quindi mi veniva sonno. Nel frattempo suonano alla campanella. Scendo e apro il cancello. Era il camion del carbone, un camion enorme. Storie di carbone, di grandi abbuffate e di leoni famelici, in una puntata tutta dedicata alla gola. Noi cerchiamo di disegnare un cerchio, cioè qui a Linee d'Ombra cerchiamo di disegnare ogni giorno, dalle 15 alle 16, qui a Radio 24, un piccolo cerchio che si apre e si chiude, grosso modo, con delle storie che stanno proprio sul confine di questo cerchio e hanno al cuore, chiudono il loro cuore, quello che racconta un vizio capitale. Il vizio capitale di oggi è quello della gola e il cerchio che apriamo lo apriamo con la storia che avete sentito in apertura. In apertura avete sentito uno stralcio da un film che si intitola Spiriti nelle tenebre. È un film di, mi sa, una ventina d'anni fa, forse qualcosa di più, che racconta una storia vera, cioè racconta la storia di due leoni famelici, due leoni più famelici del solito, due leoni che hanno di fatto quasi interrotto la costruzione di una delle più antiche ferrovie nel cuore dell'Africa, perché assaltavano i poveri lavoratori che erano per lo più indiani. Spiriti nelle tenebre, appunto, è il film che racconta questa vicenda, ma questa è una vicenda che è molto più antica di questo film e veramente racconta di quel periodo. Siamo alla fine del 1800, racconta di quel periodo, racconta di quegli uomini e soprattutto racconta di questi due leoni che sono diventati una sorta di spirito vero e proprio, non solo nelle tenebre, sono diventati due esseri che in Africa, che gli abitanti di quella zona, di quella regione, hanno quasi venerato. Era come se qualcosa o qualcuno volesse interrompere l'edificazione di quella railway, di quella ferrovia. Poi la storia ovviamente ha raccontato altro, ma oggi noi ve la racconteremo quella storia perché è una storia di fame, è una storia di fame atavica come quella dei leoni, che non possono non soddisfarla se non cacciando altri animali, e in questi casi erano degli esseri umani. È una storia molto cupa che racconta davvero qual è il confine, no? Visto che raccontiamo Linee d'Ombra, qual è il confine tra il raziocinio e l'istinto, cioè tra l'uomo e l'animale. Apriamo però con una storia, come sempre facciamo, con una storia che in questo caso è una storia più quotidiana, è una storia che ci ha raccontato Nicola ed è una storia di fame comunque. È la storia di quando da ragazzo, in un'epoca che sembra lontanissima, ma in realtà è poco più di 50-60 anni fa, ci racconta come ad esempio le caldaie venivano alimentate a carbone e come la fame fosse davvero presente nelle vite delle persone, soprattutto in alcune zone di questo paese, soprattutto anche in alcuni ceti, in alcune famiglie, per cui un pranzo di Natale rappresentava un obiettivo, quasi un obiettivo di tutto l'anno, per cui arrivarci, mangiare quegli spaghetti alle vongole, come ci racconterà lui, può sembrare veramente un obiettivo della vita. Parliamo di gola, raccontiamo storie, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Doveva essere la vigilia di Natale dell'anno 1965. Lo posso ricostruire anche in assenza di un ricordo preciso, perché mamma Michela era incinta di mio fratello Giovanni. Era all'ultimo mese di gravidanza, ma la mamma continuava a lavorare come al solito e come avrebbe poi continuato a fare fino al giorno del parto. Il suo lavoro consisteva nel fare la custode di una villa padronale ed era un lavoro praticamente a tempo pieno, tra la cura dei giardini e dell'orto, il lavoro di portineria, le tante altre piccole faccende a cui si aggiungeva nei mesi invernali, l'accensione e la conduzione della caldaia. Era inoltre un lavoro il suo che richiedeva l'aiuto di tutta la famiglia. In primo luogo di papà, Natale, che faceva il fabbro in una ditta, ma che passava tutto il suo tempo libero, che poi tanto libero non era, a lavorare soprattutto tra orto e giardino. Ma anche il mio aiuto era necessario. E già da quando avevo 7-8 anni, spesso venivo mandato a fare compere urgenti in bicicletta in paese, distante qualche chilometro. Oppure venivo richiesto per qualche prestazione lavorativa più impegnativa di tipo agricolo, raccolta pomodori, patate, cipolle, tagliare l'erba. Probabilmente oggi si parlerebbe di sfruttamento del lavoro minorile, ma all'epoca, soprattutto in campagna, era normale che ragazzi e ragazze di quell'età aiutassero i genitori anche in lavori faticosi. La cosa era anche fonte di divertimento, soprattutto quando capitava di lavorare assieme ai coetanei. D'altra parte, già alle scuole medie, e spesso anche prima, gli insegnanti dividevano colpevolmente le classi tra quelli che avrebbero potuto continuare gli studi e quelli che era meglio mandare a zappare. La villa era in un piccolo paese in provincia di Salerno, che si chiama Mercato San Severino. Era una villa recintata con la villa al centro, con il vialetto tutto attorno, e noi abitavamo nella casa del custode. C'era una piccola palazzina con cucina, due camere al piano primo, su tre piani più un seminterrato, quindi era una villa padronale, molto bella, con i bagni affrescati. Per esempio mi ricordo in particolare una stanza che loro chiamavano fumoir, che era arredato in stile orientale, penso giapponese, quindi con delle lampade, con dei tavolini più lavorati. Tornando alla vigilia di Natale del 65, faceva molto freddo per un paese dell'entroterra salernitano, a pochi chilometri dal mare. Papà era andato a lavorare e mamma, oltre alle normali incombenze da custode e allo stare dietro a mia sorella, che aveva poco meno di 2 anni, sarebbe stata impegnata tutto il tempo per la preparazione della cena della vigilia, che più o meno prevedeva qualche antipasto, spaghetti alle vongole, baccalà fritto, pesce fritto, insalata di rinforzo con baccalà in bianco, scarola ripiena, struffoli, zeppole. Io, come al solito, ero dovuto andare un paio di volte in paese, una volta per prendere i giornali per la signora e l'altra a prendere qualcosa in farmacia, sempre per la signora, la proprietaria della villa. Al ritorno il freddo si era fatto pungente, cominciavano a cadere i primi debolissimi e rarissimi fiocchi di neve. Uno dei nostri compiti nei mesi invernali era la cura della caldaia al servizio dell'impianto di riscaldamento ai termosifoni della villa. La caldaia era enorme ed era situata in un locale seminterrato a sua volta enorme che chiamavamo la stufa, a cui si accedeva dopo aver sceso 4 scalini. Oltre alla caldaia, nella stufa trovavano posto il carbone che serviva per alimentare la caldaia, la rete di un letto che noi bambini usavamo per giocare come fosse un tappeto elastico, e infine scorte di patate, cipolle e aglio. L'odore, o meglio la fragranza che si sentiva scendendo, un misto tra carbone, aglio, cipolle e patate, era fortissimo, soprattutto nelle giornate molto fredde in cui la caldaia era alimentata al massimo. Appena rientrato, salgo di corsa dalla signora per portarle quello che ero andato a prendere e, come facevo di solito, mi sdraio sul tappeto della sua camera per leggere il giornale. Dopo un attimo mi dice: «Nicola, quando scendi, di' alla mamma che ho telefonato per il carbone, dovrebbero portarlo tra poco. Sarebbe meglio portarlo subito dentro alla stufa, perché se si bagna poi non arde bene con il freddo che fa». Scendo di corsa, salgo a casa e lo dico alla mamma. Nel frattempo suonano la campanella, perché all'ingresso della villa non c'era il campanello elettrico, ma una vera e propria campana che si poteva suonare dall'esterno del cancello. Quindi scendo e apro il cancello. Era il camion del carbone, un camion enorme. Gli indico la strada per arrivare il più vicino possibile alla stufa e in un attimo scarica tutto il carbone. Gli riapro il cancello e se ne va. Nel frattempo il nevischio si stava facendo più fitto e mi rendo conto che è urgente portare il carbone nella stufa. Corro da mamma e le dico: «Non ti preoccupare, comincio a portarlo io». Scendo nella stufa, mi metto i panni da lavoro e cerco di organizzarmi. La quantità di carbone era impressionante, una montagna, 3 metri per 2, alta più di un metro, con pezzi grandi, lucenti, molto pesanti. Scarto subito l'idea di portarla con un secchio e mi dico che l'unico sistema è portarlo con la carriola, ma c'è il problema dei gradini. Ai tempi dare una mano era una necessità, quindi diciamo nell'orto piuttosto che nel giardino, tagliare l'erba, zappare, raccogliere pomodori, piuttosto che altri prodotti, era una cosa che i ragazzi, diciamo, di quell'epoca, quando andavano a scuola, a partire dalle elementari, facevano, volenti o nolenti, diciamo che a volte è divertivo, a volte un po' meno. Per fortuna nella stufa ci sono delle assi di legno che erano servite per lavori di muratura abbastanza lunghe, larghe, solide. Ne prendo una e con fatica riesco a sistemarla sui gradini in modo da poterci passare sopra con la carriola. Faccio delle prove e vedo che riesco abbastanza bene a passarci. A questo punto mi serve solo una pala e quelle non mancano. Ne scelgo una adatta alle mie forze e comincio a lavorare. Una palata alla volta riempio la carriola e una carriolata alla volta scendo in equilibrio sull'asse di legno fin dentro la stufa, scarico il carbone e riparto. Non ricordo quanti viaggi ho fatto avanti e indietro, passando dal freddo e dal nevischio di fuori al caldo della stufa, dall'odore del freddo esterno a quello caldo della fragranza patate, cipolle e aglio all'interno. Ma quello che so è che alla fine ho portato dentro tutto il carbone. La sera della vigilia di Natale del 65, dopo aver portato tutto quel carbone, ero talmente stanco che dopo aver divorato gli spaghetti alle vongole, mi sono addormentato con la testa sul tavolo e mi sono svegliato il mattino dopo. Eppure è il Natale della mia vita che mi rimane impresso a 54 anni di distanza. I really can't stay. But baby it's cold outside. I've got to go away. But baby it's cold outside. This evening has been hoping that you so drop in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my eyes. Mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might think. But baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. To break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, if sir. I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out, baby. Ah, but it's cold outside. Quando abbiamo letto la storia che ci è arrivata qualche tempo fa, la storia di Nicola, questa del carbone, dell'aglio, degli spaghetti alle vongole, della neve che scende, cioè è sembrata veramente, oltre che una storia natalizia, ci è sembrata una storia che apparteneva a due secoli fa. Non dico, insomma, non dico una storia di Charles Dickens, ma quasi, e ci è piaciuta subito proprio per l'atmosfera che raccontava. Pronto, ciao Nicola, buongiorno. Sì, ciao Matteo, ciao. Nicola, sembra davvero una storia di più di 55 anni fa, anche se alla fine è quasi l'altro ieri, nel senso che il 65 è veramente dietro l'angolo, eppure probabilmente per il luogo in cui si trovava o forse per il modo in cui ce l'ha raccontata sembra una storia di un'altra epoca. Tu come te la ricordi? Ma guarda, io me la ricordo esattamente come l'ho raccontata ed è uno dei ricordi della mia infanzia più vivi. E quindi me la ricordo esattamente così come l'ho raccontata e non ho inventato nulla, sono esattamente le sensazioni che provavo allora. Senti, la villa era una villa padronale grande, cioè si parla di insomma persone aristocratiche o particolarmente benestanti? Aristocratiche penso di no, penso che fossero particolarmente benestanti e quindi negli anni 30 avevano costruito questa villa e quindi dopo la guerra avevano diciamo fatto i soldi e vivevano in questa villa. In realtà poi era solo un signore con la moglie, quindi in definitiva poi c'erano solo due persone in questa villa. Quindi tu avevi un buon rapporto con loro e loro avevano un buon rapporto con te? Allora, il marito è morto praticamente appena noi eravamo andati lì, quindi all'inizio degli anni 60-61. Okay. E quindi poi io avevo un buon rapporto, cioè per noi la moglie era la signora, non dico il nome, ma certo, comunque certo. La signora per noi era la signora. Io al mattino l'andavo a salutare, tra l'altro lei era costretta abbastanza a letto per patologia che aveva, diciamo che stava quasi sempre a letto, quindi io andavo, la salutavo, le facevo compagnia, nel senso che mi mettevo a leggere il giornale sul tappeto, sulla poltrona, guardavo la televisione che noi in casa non avevamo, cioè quindi per me scendere le scale dalla nostra casetta, andare nella villa della signora era entrare in un altro mondo dove c'era la televisione, c'erano i tappeti, c'era il riscaldamento. Senti, tu cosa hai fatto poi nella vita? Dunque, nella vita io poi con i miei ci siamo trasferiti a Milano nel 71. Ho fatto un po' di tutto, ho lavorato in aziende editoriali fino ad arrivare a dirigente, poi ho cambiato vita negli anni 90, ho avuto un altro periodo in cui ho lavorato presso studi notarili e da 10-12 anni faccio il vigile urbano. Ma è fantastico, ma sembra davvero la storia di un film che parte da lontanissimo, passa attraverso mestieri completamente diversi tra di loro e poi arrivi a fare un mestiere che conosciamo bene perché insomma li vediamo tutti i giorni quando siamo per strada. Non so se tu sei in strada, insomma se sei in servizio in strada o sei in ufficio, però tant'è, il vigile urbano è una figura a cui tanto teniamo anche quando ci multa, soprattutto probabilmente quando ci multa. Senti, io volevo chiederti una cosa invece tecnica rispetto al cibo di cui tu parli durante la preparazione per la cena di Natale, no? Vabbè, gli spiegate le vongole, il baccalà, fin lì lo sappiamo tutti di cosa si tratta, ma gli struffoli cosa sono esattamente? Ma gli struffoli sono delle palline di farina dorata, sono quelli con i diavoletti sopra, cioè con quei pezzettini rossi, gialli di zucchero che si usano a Napoli, a Salerno. E le zeppole anche, la zeppola sono il pezzo di no, mi sto sbagliando con un'altra, mi sto confondendo con una cosa pugliese, non è la polenta fritta, no? No, allora le zeppole, probabilmente con il termine zeppole poi a seconda dei luoghi si intendono delle cose diverse. Le zeppole di cui parlo io sono delle fatte di farina, poi vengono fritte e sono praticamente viene fatto un rullo intero di pasta e poi viene incrociata tipo sovrapponendo i due lembi. Chiarissimo. Quello che dico io sono le sgagliozze, sono un'altra cosa, sono proprio delle signore che insomma a Bari, ricordo, a Bari Vecchia, mettono a friggere dei pezzi di polenta, però mi sono confuso con la Z, figurati, ma è stato quello che mi ha sviato. Ti ringrazio moltissimo per averci portato in quel mondo e in quell'epoca, Nicola, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. A presto. E ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è accaduto hai una sola possibilità, fallo, non aspettare, torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia, un episodio circoscritto e preciso, un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Ed ora continuiamo con il nostro cerchio, quello di cui vi parlavo all'inizio, perché siamo partiti con la citazione di un film che parla di due leoni, siamo passati attraverso un ragazzino affamato perché aiuta i genitori nei lavori di casa, o meglio nei lavori di una grande casa in cui vivono, e adesso torniamo esattamente là, torniamo in Africa per raccontare una storia che ha a che fare con la gola, ma soprattutto ha a che fare con animali famelici, perché l'Africa ancora oggi ha una varietà di animali che è straordinaria, quella che viene definita la biodiversità, sia animale sia appunto vegetale. La sensazione fisica che si prova in una grande città dell'Africa equatoriale è proprio quella che se l'uomo dovesse allontanarsene, anche solo per qualche mese da quel posto, la flora e la fauna tornerebbero rapidamente ad invadere la strada e a riprendersi tutto. Eppure quello che vediamo oggi non è che una piccola parte di quello che c'era fino a poco tempo fa. Non si riescono ad avere numeri precisi, ma il numero degli animali negli ultimi 150 anni si è molto ridotto a causa della perdita dei loro habitat. In una puntata che è appunto dedicata al vizio della gola, la seconda storia di oggi parla di quegli uomini che furono i pionieri della colonizzazione della savana e di cosa trovarono in quel mondo sconosciuto. Seguiteci lungo le linee d'ombra. La ferrovia, l'incarnazione del desiderio magistrale, è stata spinta attraverso una regione in cui natura e bestie selvatiche non differiscono da ciò che era l'Europa nel tardo Pleistocene. Con queste parole, Theodore Roosevelt, nel 1909, raccontò il suo viaggio lungo la Uganda Railway. Costruita durante la spartizione dell'Africa, la Uganda Railway era destinata a collegare il lago Vittoria con l'Oceano Indiano. La costruzione iniziò nel porto di Mombasa, nell'Africa orientale britannica, nel 1896 e finì sulla sponda orientale del lago Vittoria nel 1901. Churchill la considerò una brillante idea, ma, aggiunse anche, la costruzione della ferrovia non fu semplice. Marciò attraverso tutto, attraverso le foreste, attraverso i burroni, attraverso truppe di animali selvatici, attraverso la carestia, attraverso guerre e rivolte e attraverso 5 anni di dibattito parlamentare. Ma nonostante le difficoltà, il governo inglese aveva deciso di costruire la ferrovia ad ogni costo e il più rapidamente possibile. La costruzione era considerata quasi come un attacco militare, quindi le vittime sarebbero state inevitabili. 32.000 operai indiani vennero strappati ai loro villaggi dal governo inglese e trapiantati in villaggi nella savana per partecipare alla costruzione della ferrovia. Scelsero un altopiano dove l'altitudine, quasi 2.000 metri, riduceva il pericolo di contrarre la malaria, per costruire lì il loro villaggio più numeroso. Quel villaggio diventò quella che è oggi la città di Nairobi. Ma i pastori Masai non erano affatto contenti e non si fecero sfuggire occasione per attaccare i lavoratori indiani. Ma oltre alla resistenza locale degli uomini, i poveri operai indiani dovettero fare i conti anche con un mondo ignoto e spaventoso, quello delle bestie selvagge. Nel marzo del 1898, a 2 anni dall'inizio dei lavori, cominciò la costruzione di un ponte sul fiume Tsavo, nel sud-est della regione. Durante la costruzione, una coppia di leoni solitari, senza criniera, iniziò ad aggirarsi intorno al cantiere e ad attaccare gli operai. Gli attacchi avvenivano di notte. I leoni aggredivano gli uomini nelle loro tende e li trascinavano fuori per divorarli. Nessun sistema di difesa impedì ai leoni di stare lontani dagli accampamenti. Gli operai iniziarono a pensare che i due leoni fossero degli spiriti che si opponevano alla costruzione della ferrovia, e i tentativi di catturare o abbattere i felini fallirono. Gli attacchi continuarono per mesi. Don't you come here and say I didn't warn you about the way your world can alter. And oh, how you try to command it all still. Every single time it all shifts one way or the other. And I'm a god. frequenza degli attacchi addirittura aumentò, quasi al punto da causare l'interruzione dei lavori. Sembra che un esperto cacciatore inglese, Ryall, avesse preso una carrozza con il solo scopo di uccidere i due leoni, ma dopo un giorno intero in appostamento, durante la notte, si addormentò per qualche minuto e con un tempismo perfetto, le due belve entrarono in quella carrozza dal finestrino e uccisero il cacciatore. A raccontare questa storia è stato John Henry Patterson, l'ingegnere capo britannico che sovrintendeva i lavori, nel suo libro dal titolo The Man Eaters of Tsavo and Other East African Adventures. Nel diario scrive: «Ho un ricordo molto vivido di una notte, in particolare, quando le bestie afferrarono un uomo nell'accampamento della ferrovia e lo portarono vicino al mio campo per divorarlo. Sentivo distintamente le ossa che scricchiolavano. Il rumore in seguito risuonò nella mia testa per giorni e giorni». Sebbene alcuni dei dettagli del racconto di Patterson siano controversi, la veridicità della vicenda, nelle sue linee generali, è in genere riconosciuta. Patterson tentò di uccidere i due leoni usando trappole e piazzandosi di vedetta su un albero, armato di fucile. Riuscì ad abbattere il primo leone il 9 dicembre del 1898 e il secondo 3 settimane dopo. La Uganda Railway Company riferì che 28 operai mancavano all'appello. Secondo Patterson, i felini però avevano ucciso 135 volte. Ma un'analisi scientifica del pellame e dei denti dei due animali arrivò alla conclusione che le vittime erano state 35, circa una a settimana. Tutt'altro che un magro bottino. Le pelli dei due leoni mangia uomini dello Tsavo vennero conservate a Nairobi fino al 1924, quando Patterson le vendette al Field Museum di Chicago, dove sono conservate ed esposte ancora oggi. Perché i leoni dello Tsavo fossero tanto appassionati di carne umana era un interrogativo rimasto aperto. In genere la loro dieta è composta da bufali, giraffe, zebre, antilopi. Nei periodi di siccità possono spingersi a mangiare anche cuccioli di elefante, ma l'uomo non è un piatto gradito nel loro menù. Ma Larissa De Santis, una paleontologa dell'Università di Vanderbilt a Nashville, Stati Uniti, ha deciso di indagare direttamente nei denti dei famigerati leoni. Uno dei due esemplari uccisi da Patterson aveva un terribile ascesso a un canino e 3 incisivi spezzati. Il suo compagno di caccia soffriva per una ferita a un dente e alla mascella, e quindi con questi acciacchi difficilmente avrebbero potuto azzannare e soffocare una preda di grandi dimensioni. L'analisi dei denti dei leoni mostra che gli operai della ferrovia erano arrivati a rappresentare il 30% della loro dieta. Esistono anche 3 film di Hollywood su questa storia, ma se volete godervela al meglio, organizzatevi una visita al Museo delle Ferrovie di Nairobi e fatevi raccontare la storia del primo custode che incontrate. Vi racconterà degli indiani, costretti a partire dalle loro case per andare a lavorare nella savana. Vi farà in diretta una ricostruzione dell'agguato a Ryall, proprio sul vagone del treno in cui avvenne. Vi mostrerà i graffi sui sedili di cuoio e poi, gran finale, da un cassetto tirerà fuori una scatolina di quelle dove si tenevano le diapositive. La aprirà e vi farà toccare le unghie di quei due leoni, dicendo, con una punta d'orgoglio, che almeno le unghie se le sono tenute in Kenya. Heart is beating like a jungle drum. La storia che vi abbiamo appena raccontato, quella dei due leoni dello Tsavo, è una storia che potete trovare un po' in giro sul web. Potete rivedervi il film Spirito nelle tenebre, è una storia che Mauro Pescio ha raccolto, gli è stata raccontata direttamente a Nairobi, proprio da uno di quelle guide di cui parla in chiusura della storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'Ombra. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Abbiamo parlato molto della gola in questi mesi attraverso le storie che vi abbiamo raccontato. La puntata di oggi ha una versione particolare del tema della gola ed è quella della fame. Le abbiamo raccontato storie molto diverse tra di loro, appunto la storia di questi leoni famelici che hanno addirittura quasi bloccato la costruzione di una ferrovia nell'Africa della fine del 1800, e poi vi abbiamo raccontato la storia di questo giovane uomo che da ragazzino lavora con la mamma in una grande villa padronale e insomma mangia in un giorno di enorme stanchezza, si mangia un piatto di spaghetti alle vongole e si sveglia il giorno dopo appoggiato alla tavola. Noi vorremmo però usare questa puntata per provare a saperne un pochettino di più sulla storia del cibo, cioè il cibo che mangiamo oggi, da dove arriva, che origini ha, come sono formati anche in qualche modo i gusti. E per farlo abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti di questo tema. Lui è Massimo Montanari, è professore di storia medievale e di storia dell'alimentazione all'Università di Bologna. Professor Montanari, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Innanzitutto, lei ha scritto una quantità di libri enorme sul tema del cibo, soprattutto sul tema della storia del cibo e dell'alimentazione. La prima cosa che mi viene da chiederle è, rispetto al Medioevo, che mi sembra grosso modo un periodo di riferimento cardine, come è cambiato il cibo che noi abbiamo sulla tavola? Quanto è cambiato e in che modo? Il cibo è cambiato e siamo cambiati anche noi. Non mi stanco mai di ripetere questa ovvietà che però a volte ci dimentichiamo, cioè mangiare è un gesto di relazione fra un oggetto che viene mangiato e un soggetto che lo mangia. E quindi il cibo è cambiato sicuramente, ma non abbiamo davanti a noi il cibo medievale, non sappiamo come fosse, non lo possiamo confrontare con quello di oggi, anche se porta gli stessi nomi magari. E poi non abbiamo però la stessa persona a mangiare questi cibi. Quindi se io oggi, per esempio, mangiassi un cibo medievale preparato all'uso medievale, sicuramente non proverei le stesse sensazioni che poteva provare un mio antenato. Voglio dire, noi abbiamo le ricette medievali, ma se io mangio questa cosa oggi non ho più con l'oggetto quello stesso rapporto empatico che poteva avere un uomo del Medioevo. Uno dei suoi ultimi libri si intitola Il mito delle origini, breve storia degli spaghetti al pomodoro, pubblicato dalla Terza. Professor Montanari, qual è la storia degli spaghetti al pomodoro, se si può fare in breve, in pochi secondi? È una storia lunghissima che mi è servita anche per esemplificare, proprio con una storia concreta, come la costruzione delle identità alimentari. E io ho scelto gli spaghetti al pomodoro proprio per questo motivo, perché sono un piatto fortemente identitario della nostra cultura, certo, oggi. Ma è un piatto che, se tu vai a smontarlo storicamente, ricercando le origini dello spaghetto, le origini del pomodoro, ci riportano storie dove queste cose, prima di incontrarsi, vivono in mondi separati, vivono storie separate. La pasta nel Medioevo si condisce solamente con burro, formaggio, spezie e zucchero, e questa è una tradizione che dura fino al 600-700. Poi arriva il pomodoro, che esisteva da secoli in Europa, portato dall'America, ma entra nel discorso della pasta solamente sotto forma di salsa, e si porta dietro il peperoncino, e si porta dietro anche l'aglio o la cipolla, e si porta dietro il basilico, e a un certo punto si aggiunge come tocco finale quell'olio di oliva, che a noi sembra ovvio, che invece è una grande novità su quel piatto, che prima veniva condito col burro, se te lo potevi permettere, o col lardo. Ecco, queste vicende io le ho raccontate proprio con uno scopo anche di illustrare come la costruzione dell'identità sia un fatto storico che avviene lungo il tempo e che chiama in causa culture diverse, luoghi diversi e tempi diversi. Quindi anche gli spaghetti al pomodoro, che sembrano la cosa più italiana possibile, in realtà hanno un'identità che è molto più variegata e arriva da zone molto più, insomma, molto diverse tra di loro, Ma il bello della storia è proprio questa, che è una costruzione di una vera identità italiana che però nasce dall'incontro di tante culture diverse. Cioè, una cosa non esclude l'altra. Chiarissimo. È la costruzione di un'identità che avviene attraverso scambi, incontri, incroci, contaminazioni, storie molto complicate ma molto interessanti. Professor Montanari, la ringrazio moltissimo e se volete saperne di più, leggetevi Il mito delle origini, breve storia degli spaghetti al pomodoro. Grazie ancora, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Arriviamo alla fine della prima settimana dedicata al vizio della superbia con la nostra storia seriale, che potete riascoltare ovviamente domani sera alle 21.30 al sabato, nel blocchetto delle 5 puntate seriali dalla prima alla quinta, cioè da lunedì al venerdì, in un blocchetto di mezz'ora. E arriviamo un pochettino al cuore della situazione. Stiamo per arrivare all'interno di quella scuola, la scuola in cui c'è stato quel massacro orribile nel 2018 in Florida, e la nostra protagonista, la protagonista di questa storia, è stata intervistata da nostro Mauro Pescio. E questo è quello che ci racconta proprio di quel giorno. Io di solito mi sveglio presto tutte le mattine e vado fino al parcheggio antistante la scuola in macchina con mio papà. Poi lo saluto, aspetto le mie amiche e cammino con loro ancora per circa 500 metri per raggiungere la scuola, attraverso il parco, intorno al campus. Questo accade tutte le mattine tra le 7:30 e le 7:45. Alle 7:45 suona la campanella e alle 7:50 devo essere in classe. Io frequento l'equivalente italiano di un liceo che è strutturato in 4 anni. Tra il 2017 e il 2018 ho frequentato il terzo anno. Quel giorno, il 14 febbraio del 2018, avevo un'esercitazione antincendio a scuola. Le facciamo una volta al mese. Ogni anno facciamo due esercitazioni contro gli attentati e una al mese contro gli incendi. Dove scatta l'allarme senza all'insaputa degli studenti e devono tutti uscire fuori in modo ordinato, e dove insomma sapere le vie di fuga e tutto quanto. Quel giorno, guarda caso, l'avevano fatto la mattina. Quel giorno era il giorno di San Valentino. Ognuno di noi aveva portato a scuola cioccolatini, fiori, palloncini colorati. Tutti cercavamo di essere più carini o più carine quel giorno. Non ci aspettavamo che potesse esserci l'esercitazione, e quando abbiamo sentito la sirena abbiamo anche pensato che potesse essere stato organizzato apposta proprio in quel giorno lì, un giorno in cui eravamo più distratti a causa dei festeggiamenti. Al suono della campanella ci siamo messi in fila, ci siamo messi nel nostro gruppo con le nostre insegnanti, abbiamo fatto tutto quello che sapevamo lì in fila dietro l'insegnante e siamo usciti dalla nostra classe come tutti i mesi. Più o meno era la seconda ora. Poi, verso le 10, l'esercitazione finiva e diventava un giorno di scuola come tutti gli altri. La nostra scuola finisce tutti i giorni verso le 2:40 del pomeriggio, quindi avevamo ancora un bel po' di ore prima che finissero le lezioni. Ma all'ultima ora, verso le 2, suona un altro allarme per l'esercitazione antincendio. In quel momento noi stavamo facendo una lezione di cucina, perché qualche volta facciamo anche lezioni di cucina. Sembra un po' strano, ma ci prepariamo di nuovo per una seconda esercitazione. Si chiude qui, si chiude così anche questa puntata di Linee d'Ombra, anche questa settimana intera. Riascoltateci in podcast se avete voglia, ma soprattutto sfruttate questo weekend di febbraio, è il penultimo weekend di febbraio, e poi arriverà marzo, comincia la primavera, comincia a fare più caldo, la gente ha voglia di uscire, voi avrete voglia di uscire, allora mettetevi in casa, aprite il vostro computer e scriveteci una storia che racconti qualcosa di voi, che abbia a che fare con una linea d'ombra, con una zona di confine, che racconta chi siete, ma anche e soprattutto chi delle volte non volete raccontare che siete, cioè quale parte di voi tenete più nascosta, e noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata qui a Linee d'Ombra. Ora sentiamo il GR e noi torniamo lunedì sempre a raccontare storie, sempre alle 15, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!